siamo qui ad aspettare un nuovo giorno, sul viso lacrime che il vento porterà lontano come un messaggio. Quanta gente per la strada al freddo e senza casa, gli occhi dei bambini piangono perché hanno fame. Aprite il vostro cuore al domani, alla povera gente. Ci avete rubato il sorriso, ma non spezzerete le nostre ali. Corrono, quanti volti scappano e vanno senza meta. Siamo tutti colorati e siamo ancora qui perché un giorno cambierà. Io voglio libertà, noi vogliamo libertà. Tutti gridano libertà, anche il mondo vuole libertà. Siamo stanchi di essere calpestati, questa vita ci crolla addosso. Riprendiamoci la terra, il mare, la luna, le stelle e aria pura da respirare. Contro le guerre siamo noi, e di chi calpesta i diritti umani. Quanti popoli feriti e derubati dalla propria terra. Liberiamoli, liberiamoli, liberiamoli. Tutti abbiamo diritto di esistere. Apri le tue braccia e stringimi, freddo non sentirai. Resistere, lottare, non arrendersi, un altro mondo è possibile. La strada è lunga e non finisce qui, quella della libertà. Io voglio libertà, noi vogliamo libertà. Tutti gridano libertà, anche il mondo vuole libertà. Io voglio libertà, noi vogliamo libertà. Tutti gridano libertà, anche il mondo vuole libertà.